Quando spunta il sole, là nell'Abruzzo tutto d'oro, le prosperose campagnole discendono le valli in fior. O campagnola bella, tu sei la reginella, negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli tutte in fior. Se canti la tua voce, è un'armonia di pace che si diffonde e dice: se vuoi vivere felice, devi vivere quassù. Thank you.